Non potrò riposare, amore, coro. Pensando a Pietro, dove è momento. Non viste se in quest'ora per la oro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a Pietro un bramo cadamo forte da t'assicuro che a te sono un bramo, cadamo forte d'amo, d'amo, d'amo. Essere possibile d'angelo, si spirito invisibile picavo, sa forma se furavo da e che lu su esiste dove formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene. Non viste se in tristura